Allora, Neuro Green ha questa vena catastrofista. Pink, Samba, tutta quest'area creativa, gioiosa, che ci fa qui? Effettivamente c'è una contraddizione. Come gruppo, collettivamente, sicuramente abbiamo una vena molto più allegra. Personalmente invece condivido questa vena catastrofista, e infatti il mio intervento è stato in linea, secondo me. Ma Neuro Green allora è schizofrenico? Neuro Green nella sua collaborazione sarà schizofrenica probabilmente. E cosa succede a Torino l'8 marzo? L'8 marzo è tutto da costruire, probabilmente succederà quello che succederà anche in altre zone d'Italia, di azioni fatte, portate avanti appunto da questi gruppi come il nostro. Noi puntiamo soprattutto sul 5 marzo, ovvero una parata pink legata però ai temi appunto del corpo e comunque legati a quello che è stato le nostre campagne negli ultimi tempi. Com'è nata la Samba Band? La Samba Band è nata dopo Genova da un gruppo di persone che cercava di uscire un po' da questo impasse e cercava di fare qualcosa di creativo, allegro, comunicativo, perché come indole, non perché non gli piacesse questo o quell'altro, ma come indole sentiva di far quello. È capitata l'occasione di incontrare gruppi del nord Europa che facevano cose simili, ci è piaciuto e stiamo andando avanti così. Elio per Radioactive, grazie.